Mi viene da vomitare. Mi viene da vomitare. Mi berei un yogurt bifido al carbonchio attivo per riequilibrare la flora batterica dopo che ho vomitato. Io se avevo una sorella la chiamavo Flora. Anche se si chiamava Barbara o Giovanna, Luisella, io la chiamavo Flora perché Flora è una tipa troppo forte. Un giorno no, che a scuola c'era ora buca. A noi di prima ci hanno lasciato giocare a pallone. Flora è venuta negli spogliatoi e ha fatto il record storico della scuola. Ci siamo messi tutti in fila, tipo la nazionale di calcio quando suonano l'inno d'Italia. Ci siamo tirati giù le braghette e Flora lo ha preso in bocca a tutti. Più di 12 pompini di seguito, in ginocchio come se pregasse in chiesa. Non è che siamo venuti tutti, però è stato forte. Flora, secondo me, diventerà avvocatessa, non so perché, ma sono sicuro. Io tengo per la Juve. Forza, Juve! Quella bambina che è stata rapita, no? Quella che è rimasta chiusa in cantina da quando aveva 10 anni e poi a 18 è scappata, no? La verità è che non era stata rapita. I suoi genitori l'avevano venduta. Venduta! Ah, no! Lei però non è stata male. Quando è uscita, tutti dicevano che era molto istruita per una della sua età, perché aveva letto tantissimo. Non aveva niente altro da fare. Secondo me, lui e lei si amavano. Ma a 18 anni, cacchio, tutti vogliono andare via di casa e vedere il mondo. E lui però non è mica morto subito. È andato su internet e ha conosciuto uno che voleva uccidere qualcuno. E siccome lui voleva morire, si sono messi d'accordo. Il tipo di internet se lo voleva mangiare. Lui ha preso l'aereo, è andato in America, non so dove, si sono incontrati e quello là gli ha tagliato l'uccello e l'ha cucinato. E se lo sono mangiati insieme guardandosi negli occhi. E poi l'ha ammazzato. Su internet, Vara, ci sono delle cose pazzesche. Mi ha detto un mio amico che ha visto la foto di un gattino allevato in bottiglia, a forma di bottiglia, su internet. L'hanno messo dentro che era appena nato, gli hanno dato da mangiare con la cannuccia e lui è cresciuto a forma di bottiglia, la testa, il corpo, tutto. Ma non può essere vero, vero? Non può essere vero perché tipo i bisogni, come faceva a farli dentro la bottiglia per tanti mesi? No, non è vero, poveretto. Povero gattino imbottigliato. Quella volta di Flora io non sapevo che si chiamava Pompino, l'ho saputo da mio nonno per Natale. Mio nonno si chiama Angelo come me, cioè io mi chiamo Angelo come lui. Quando sono nato lui non voleva perché diceva che i nomi dei nonni si danno solo quando i nonni sono morti, se no porta sfiga. Ma mio papà gli ha detto che lui altre idee non ce ne aveva e che per favore non rompesse i coglioni e l'ha convinto. Mio nonno faceva sempre scherzi da prete, che poi non so perché si dice scherzi da prete. Cioè, che scherzi fanno i preti? Beh. La sera della vigilia di Natale sono andato a chiamarlo al bar, perché mia mamma diceva: almeno a Natale, Cristo Santo, una cena come Dio comanda, in famiglia, tutti insieme. E lì al bar uno che giocava sempre a carte con mio nonno mi fa così, per essere gentile: e ora, Anzio, cosa ti regali a sto anno, Babbo Natale? Ma non ci credo più a queste cose. Va bene, la mamma e il papà allora. Bici nuova e pallone. Oh, però, fa mio nonno, è un bel pompino, no? Non so, cos'è? Domanda che ne una a tua mamma, che come erano i fanissoni, scoppa! E io gliel'ho domandato. Mamma, mamma, questo Natale mi fai un pompino? Per piacere. Madonna, che schiaffone! A mio nonno non piaceva mia mamma, e neanche lui a lei. A mia mamma piaceva il Chivas. In un mazzo di violette, anche Giglio ci sta bene. Noi vogliamo tanto bene alla madre superiore. Per fortuna che quella volta del pompino di Natale mio papà non era a casa. Lui faceva l'infermiera al pronto soccorso. Faceva i turni anche di notte, a casa non stava quasi mai. Solo per mangiare, per dormire. E poi neanche più per mangiare perché tanto mia mamma non cucinava più. La passione di mio papà era la lap dance. Andava sempre in un posto fuori a tanti chilometri. Com'è che si chiamava? Ah, Le divine follie si chiamava. Le divine follie. Gli piaceva una ballerina russa o ucraina e un'altra brasiliana, che però mia mamma diceva che era un transvestito. Porco degenerato, quello è un transvestito! E diceva che tiravano cocaina insieme. Non so chi gliel'aveva detto. Ti sei bruciato il cervello, deficiente, diceva. E al nonno, e te? Non gli dici niente a tuo figlio? E il nonno, no, e andava in camera sua. La mamma si arrabbiava perché mio papà spendeva un mucchio di soldi e raccontava un sacco di balle. Ha chiesto anche al parroco di farlo ragionare, di ricordargli le sue responsabilità di marito e di padre e il valore del sacramento del matrimonio. Mio papà è andato a parlare col parroco e dopo un po' si è convertito. Ha conosciuto la Perpetua, che era una giovane, e si sono innamorati. E non è più venuto, solo ogni tanto per litigare sui soldi. E quando lui andava via, mia mamma litigava con mio nonno. Gli diceva, te ne devi andare, non siamo neanche parenti, non puoi stare, non è casa tua. Ma lui neanche l'ascoltava. Tanto a casa non c'era mai neanche lui. Tornava la sera tardi che neanche ti accorgevi. Mio papà diceva che adesso che erano separati, bisognava vendere la casa e dividere i soldi. Ma la mamma non voleva. Urlavano. Una volta la vicina ha anche chiamato i carabinieri. Ah no. Finché un giorno, siccome lui non pagava gli alimenti, il giudice gli ha sequestrato lo stipendio. E da quel giorno lui ha cominciato a odiarci e a volerci morti. La mamma invece non è più uscita da camera sua. Era sempre a letto, non faceva niente. Ascoltava le canzoni per radio. È diventata grassissima. Io volevo mettere via dei soldi per comprarle una cicletta o un tapis roulant da casa perché facesse un po' di sport. Oppure quegli attrezzi là che si vedono nelle televendite. Il massimo era quell'apparecchio che tu stai fermo con dei fili elettrici attaccati che ti danno le scosse ai muscoli, così poteva fare sport anche stando a letto depressa al buio. Ma di soldi non ce ne avevo. Caramba, beviamo del whisky, caramba, beviamo del gin. Allora ho chiesto a mio nonno se potevo andare in cantiere con lui. Lui era muratore in pensione, ma ogni tanto lavorava ancora in nero, perché con la pensione diceva che non si pagava neanche l'osteria. Stavano facendo un albergo grandissimo, 7 piani vista mare, nel senso che dovevi fare 7 piani per vedere il mare. Hotel Belvedere si chiamava, originale. Io gli portavo la merenda, lo aiutavo un po' e lui mi dava qualcosa. Lì erano tutti neri tranne me e mio nonno. Così mi sembrava un po' di fare un viaggio all'estero. Arrivavo da scuola che loro erano in pausa pranzo. Facevano un tavolo con le assi di legno e lo mettevano sulla terrazza panoramica. Ognuno si portava la sua roba da mangiare e da bere. Non è che parlassero tanto. Non sapevano neanche tanto bene l'italiano e anche tra loro avevano lingue diverse. Però dopo un po' avevamo fatto abbastanza amicizia, anche se di poche parole. A me faceva impressione il bianco degli occhi, anche i denti, ma soprattutto gli occhi. Quando arrivavo mi facevano un saluto oppure mi davano la mano, tipo no, i giocatori di basket, dammi 5, robe così. Anche se però non erano mica negri americani tipo Mike Jordan. Io gli chiedevo, da dove vieni? E loro mi dicevano Senegal, Niger, Camerun, Gabun. E a casa guardavo nell'Atlante geografico. E poi gli chiedevo, tipo, come si dice angelo in senegalese? Wolof? È angelo, come si dice in Wolof? Malaka. Ah, Malaka. E Mustafa e Mamadou? Mi chiedevano loro. Mustafa, si dice Mustafa uguale anche in italiano. E Mamadou, lo stesso, uguale Mamadou. E ridevano. Mamadou era il più simpatico di tutti. Ogni tanto raccontava delle storie veramente assurde. Tipo, un giorno, mamma coccodrillo dice al figlio coccodrillo che è tanto malata che sta per morire. E per guarire le serve un cuore di scimmia. Allora il coccodrillino attraversa il fiume e su una palma trova una scimmia e le dice che sull'altra sponda del fiume ci sono un sacco di palme piene di cocchi e se vuole ce la porta. E la scimmia, va bene? Allora la scimmia monta in groppa al coccodrillo, ma quando sono in mezzo al fiume lui si immerge sotto acqua e lei urla, ma sei scemo a fuoco così? E lui dice, appunto, così muori. A me serve il tuo cuore per mia mamma che è malata. E la scimmia, furba, gli dice, Ah, ma io il cuore non ce l'ho qui con me. L'ho lasciato su, sulla palma dove mi hai trovato. E allora tornano a prenderlo. Ma quando arrivano, la scimmia si arrampica in cima alla palma come un razzo e gli dice: se vuoi il mio cuore, vieni a prendertelo, ti è. Fine della storia. Da morir da ridere, Vara. Ma insomma, era simpatico. Passavamo il tempo. Poi però è sparito e non si è più visto. Mio nonno mi ha detto che oramai si era fatto un sacco di soldi e aveva deciso di tornare al suo paese, dalla sua famiglia, e comprarsi il Mercedes e farsi una bella villa con piscina. Mi ha detto che mi mandava anche una cartolina con l'indirizzo. Però non mi è mica mai arrivata. E poi dopo un po' i carabinieri sono venuti a chiedere a mio nonno se lo conosceva e gli hanno mostrato la foto e gli hanno chiesto se lavorava in cantiere. E lui ha detto che a parte che sono tutti uguali, ma quello lì era sicuro, ma proprio sicuro, che non l'aveva mai visto in vita sua. Io volevo dire qualcosa, ma poi ho pensato, meglio che sto zitto, va. Vai, distruggi il male, vai. Il lavoro non era difficile, più che altro portavo secchi. Se arrivava il capo cantiere, mollavo tutto e andavo a giocare col cane da guardia, Ariston. Era un bastardone trovatello. L'avevano trovato due che passeggiavano vicino alla discarica. Avevano sentito come dei guaiti, dei lamenti che venivano da dentro un frigorifero chiuso e sigillato con lo scotch. Avevano aperto e dentro c'era sto cane, morto di paura, con le zampe di dietro legate col fil di ferro. L'hanno tirato fuori e l'hanno portato al rifugio. Si è salvato per un pelo. E al rifugio l'hanno curato e hanno deciso di chiamarlo Ariston, per via del frigorifero. E poi il cantiere lo ha adottato per fare la guardia. Oh, chissà Rex allora cosa gli è successo. Comunque il lavoro è durato poco perché mio papà si è arrabbiato. Perché lui da piccolo era stato costretto a fare il manovale che non gli piaceva. Si era dato da fare per studiare come infermiere e adesso suo figlio finiva a fare il manovale coi neri, coi marocchini. Porca carità! Il nonno gli diceva: guarda che quei guadagna e noi paga mica le tasse quei là, quei gal Mercedes, si sta meglio di noi altri. Ma niente. Insomma, non sono riuscita a mettere via abbastanza soldi. Quando i bambini fanno... le cose da mangiare che preferisco sono tramezzini, asparagi e uova, tortellini, pane prosciutto, melanzane alla parmigiana, patate fritte, sofficine al formaggio e basta. Carne no. Una volta la prof di educazione tecnica ci ha portato in gita al macello comunale. I genitori hanno firmato l'autorizzazione, ma non avevano mica capito bene com'era la faccenda. Un sacco di gente è stata male, ha vomitato anche l'anima. Funzionava così. Facevano passare le mucche per un corridoio strettissimo, una alla volta. E arrivata in fondo c'era un affare che gli bloccava la testa e un tizio che gli sparava in fronte come una specie di pistola. Poi le attaccavano con un gancio per le zampe di dietro e le tiravano su. E poi le squartavano, una via l'altra. E quelli dietro avevano gli occhi fuori dalla testa dal terrore. C'era un tanfo tremendo, tipo... di bue, budella, viscere. Madonna, che impressione. Per poco non vomitavo. Non ho mangiato più carne, se no mi tornava in mente. Perpetua vuol dire per sempre. Per uguale per, petua uguale sempre, tipo. Un giorno sono tornato da scuola che la mamma e il papà litigavano. Allora ho girato la bicicletta e sono andato a fare un giro fino al campo sportivo. Arrivo all'incrocio della chiesa e sento una frenata tremenda. Inchiodo, stavo quasi per cadere. Era l'alfa di mio papà che mi aveva mancato per un pelo. Io ho pensato, adesso scende e mi massacra di botte. E lo guardavo e lui niente, immobile. E poi è ripartito, senza battere ciglio. E dopo un po' si è trasferito, assieme alla Perpetua. Gli zaini per la scuola sono troppo pesanti. Fanno venire anche la scogliosi. Ci vorrebbe la trailer, che uno se l'attacca anche alla bicicletta a traino. Oh, pare che un uomo, per un gioco erotico, ha infilato il cellulare con la vibrazione nel culo di una e poi la chiamava in continuazione, lei godeva. Poi però si è incastrato e hanno dovuto andare al pronto soccorso per toglierlo e lì vanno a spiegare. Io dopo un po' non c'entravo più in camera della mamma. Intanto perché lei non voleva. E poi perché c'era puzza di chiuso, perché non apriva mai. Tornavo da scuola, andavo in cucina, mi facevo pane e Nutella e guardavo i Simpson in TV. Scuola, casa, pane e Nutella, Simpson in TV. Ogni tanto provavo a farmi una sega davanti alla TV per cambiare, ma non mi dava tanta soddisfazione. E tuo papà, che ha cominciato a dirmi: sei una botte, guardati, sei una botte. Anzi no, una balena. E i vestiti non mi andavano più bene. Ho provato a far dieta, tante ne ho provate, ma niente. Alla fine mi sentivo proprio una balena. Ma poi non era neanche un problema di taglia. Non mi amava più, cosa vuoi? Dopo tanti anni. Ero bellina, sai, da giovane. Tanto. Ma a parte quello, giusto quello, ecco. Studiare non mi è mai piaciuto. Poi con tuo papà a un certo punto si è parlato di aprire un centro estetico con i massaggi, le lampade, i trattamenti. Oppure un'erboristeria. Ma solo parlato, ecco. Poi sei nato tu. E basta. Ecco. Tutto qui. E vedrai che bella festa. Forse la mamma usciva dalla stanza tipo per andare in cucina o al gabinetto quando io ero a scuola. Non ci incontravamo mai. Però ogni tanto sentivo dei rumori, di notte magari. E poi una volta non ho più sentito niente per un po' di giorni. E mi sono un po' preoccupato. Sono andato, ho bussato e niente. Ho aperto una luce pazzesca. Mi pareva di entrare nella stanza del tesoro, tipo, con tutti i muri coperti di argento. E poi ho visto che erano i cartoni del whisky stesi e appiccicati uno vicino all'altro, tipo carta da parati, tutta la stanza. E la mamma era sul letto, ferma. Si vedeva soprattutto la pancia, grossa come quella di una balena. Era tipo svenuta e aveva tipo bava alla bocca, tipo yogurt. Ma mi sa che era vomito. Io non ho mai preso l'aereo in vita mia. Di mezzo ho preso, vabbè, la bicicletta, la macchina, il treno, i pattini, motorino, la corriera, il traghetto una volta in gita, il motorino ho già detto, la canoa, l'aereo no, mai. Dopo che la mamma è morta c'è stato il funerale, è venuto anche mio papà, ma è ripartito subito. Siamo andati a pranzo in trattoria, anche con il nonno. E abbiamo deciso che all'inizio io restavo a vivere col nonno, perché la Perpetua era incinta e nervosa, un momento delicato, insomma. Poi mio papà è ripartito, il pranzo l'ha pagato lui, e io e il nonno siamo rimasti ancora un po'. Lui ha preso grappa e caffè, io gelato, alla nocciola. Poi, però, mentre tornavamo a casa mi è venuto un groppo. E ho chiesto a mio nonno: ma nonno, perché si muore? Per far che posto agli altri, mi ha detto. È vero, ho pensato. Pensa se nessuno morisse mai. Non ci sarebbe posto per nessuno. Miliardi di cinesi, tutti gli esseri della terra di tutti i tempi, gli antichi greci e romani, tutti stretti così. Oh, Fara, che se ci pensi, c'è tanta, ma tanta più gente sottoterra che sopra. Però, dopo la storia della mamma, ero veramente giù di corda. Il nonno stava quasi sempre al bar. Qualche volta andavo con lui, mi sedevo e guardavo quelli che giocavano a carte e litigavano. A scuola, soprattutto all'inizio, mi trattavano come se avessi preso una malattia. Ma ero solo triste. Non andavo tanto bene. Non riuscivo, non mi interessava niente. Mi sono messo in fondo, vicino alla finestra, guardavo fuori nel cortile e lì stavo. È durato dei mesi. Una volta è venuta una psicologa e mi ha chiesto se mi mancava mia mamma e se andavo volentieri a scuola. Abbastanza, ho detto. Abbastanza cosa, caro? Tutte e due. Non mi andava di parlare con nessuno. Una volta mi ha telefonato mio papà per dire come stai e che mi era nata una sorellina. E a me cosa me ne frega, volevo dirgli. Però non gliel'ho detto. Vuoi sapere come si chiama? No. Come? Flora. Luisella. Luisella, madonna che schifo. Vabbè, ma tanto non me ne fregava un tubo di niente. Neanche i Simpson mi facevano ridere. Finché c'è stato il saggio di musica della scuola, il giorno del martedì grasso. Tutti quanti ci siamo dovuti travestire da qualcosa. Io non so neanche da cosa ero travestito, forse da elfo, forse da marziano. E al saggio mi hanno fatto suonare per forza, da solo, perché quella puttana della psicologa aveva detto alla professoressa che dovevo essere stimolato. E io ho suonato. Vabbè, ogni tanto sbagliavo. E più sbagliavo e più ridevano quei cretini dei miei compagni. E più sentivo che ridevano e più sbagliavo. E c'era anche Flora. Era vestita da Elena di Troia, anche lei però. E non so perché, non so cosa mi è preso. Ho smesso di suonare e ho detto: invece di ridere tanto, vieni tu qua a suonare il piffero. Visto che sai fare i pompini, saprai suonare anche il piffero. Forte. Davanti a tutti. Silenzio totale. A quel punto potevo anche stare zitto, ma mi era venuta una rabbia. Allora ho detto anche: sei proprio una troia, Vara, altro che Elena, va bene? E lei è diventata ancora più viola in faccia. Mi ha fatto un'impressione. Non viola così, per modo di dire. Proprio viola, tipo una melanzana. È successo un casino. Hanno chiamato mio nonno e mi hanno mandato a casa da scuola. Ma a me non dispiaceva mica. Così potevo girare in bici tutto il giorno. Verso sera andavo fino al cantiere. Da lontano vedevo questi omini neri che lavoravano. Il bianco degli occhi si vedeva anche al buio. Oppure andavo sulla sopraelevata e guardavo le macchine che spassavano. Oppure guardavo il cielo e pensavo: peccato che non ho mai preso l'aereo. Mai più mi aspettavo una roba del genere. Povero fio così. No, non mi aspettavo. Gli dice che i more giovani quei che i dei ama. Ma porco, ma sai che avrà sbagliato, mi dico, che ha tolto un per un altro. Sai che ha sbagliato il nome. Gada è andato così. Brutto mona, Dio farloco. Una sera no. Ho aspettato finché il cantiere chiudeva e tutti i senegalesi andavano via, tutti curvi sulle graziele. Ho fatto un buco nella rete e sono entrato. Ariston non ha neanche abbaiato perché mi conosceva. Mi ha dato una slinguazzata schifosa in faccia, ma a parte questo è andato tutto liscio. Sono salito fino in cima al belvedere con la bici. Ho preso la rincorsa dalla terrazza e mi sono buttato sotto, in mare. Un volo lunghissimo. Non arrivavo più. Pensavo, sono diventato un uccello. Mi passavano un sacco di immagini in testa, velocissime. Ricordi, ma anche no. Vedevo mio nonno che giocava al videopoker. Poi gli veniva la prostata e in ospedale faceva lo scemo con le infermiere. Il papà e la Perpetua, che avevano due bambine, Luisella e Mirella, madonna. E per un po' erano abbastanza felici, ma poi cominciavano a litigare di brutto. L'hotel Belvedere! Distrutto, perché era abusivo. La mamma, bella, magrissima, che mi sorrideva. Flora, tutta vestita e truccata, che faceva l'avvocatessa, come dicevo io. I miei compagni di scuola, che facevano le gare in motorino sulla statale. I senegalesi in giro col Mercedes. Il futuro, praticamente. Ciao, Flora! Ma in mare sono stato inghiottito da una balena. Come si chiama quello là nella Bibbia? Giona! E lì dentro nella pancia ho pensato, ma che sfiga! Dopo però ho visto che nella pancia della balena era pieno di roba, bottiglie, sacchetti. Guarda, è incredibile quello che può inghiottire una balena. Mi ha detto un mio amico che una volta dei pescatori hanno pescato una balena e quando gli hanno aperto la pancia hanno trovato un camper con dentro una famiglia di tedeschi ancora vivi. Ho preso un sacchetto, me lo sono infilato in testa, ho stretto forte e ho detto: aiuto, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Non ce la faccio. Oh, guarda che però non è mica facile uccidersi con un sacchetto del supermercato. Allora ho provato con un pezzo di vetro. Oioioi, cozzo, cozzo, merda, che male, merda, cazzo. Oh, ma posso morire o no? Per far posto, no, cazzo di Buddha. A un certo punto vedo lì nel buio come tanti lampi, come tante lucette bianche. E mano a mano che mi abituo, vedo che sono occhi. Occhi di persone. Le persone però non si vedono tanto perché sono nere. Madonna! Sono tutti neri del cantiere. Ma cosa ci fate qua? Dove andate? E loro mi dicono a spizziche bocconi che stanno tornando a casa, che sono stufi di stare da noi, che dell'Italia magari hanno visto poco, ma quel poco gli fa schifo. Hanno nostalgia e di soldi ne hanno fatti a palate per via che non pagano le tasse, no? In Africa, dico. Stiamo andando fino in Africa. Ma non era meglio l'aereo, eh? Adesso che siete anche ricchi. Va bene, non mi importa. Tanto manca poco, mi dicono. Ormai siamo quasi arrivati. Infatti, a un certo punto, c'è un gran tonfo e un gran movimento e cadiamo tutti uno sopra l'altro nel buio che non si capisce più niente. E poi ci troviamo su una spiaggia bianca bianca, un caldo boia, un sole che acceca e c'è un sacco di gente che aspetta. Sono le famiglie, no? Le mogli, le mamme, tutte colorate e i bambini. E tutti si baciano, si abbracciano e poi vanno via. E io rimango lì in questa spiaggia da solo come un citrullo e penso: e adesso? Adesso cosa faccio? Come ci torno a casa? Con la balena? E poi da lontano vedo un puntolino nero polveroso. È una macchina che si avvicina, un Mercedes, e mi fa dei segnali coi fari a me. E si avvicina sempre più e poi si ferma. E scende uno che non sono sicuro, perché è vero che si assomigliano parecchio. Però quello è proprio Mamadou, tutto elegante, in smoking, che viene, mi abbraccia e dammi 5, tutte quelle robe lì. E poi mi carica in macchina, sul Mercedes, attacca l'aria condizionata a palla e mi porta a casa sua. Una villa enorme, stracciatissima, con piscina, tutto uno scintillio e la jacuzzi e c'è una festa. E Mamadou mi presenta un sacco di gente. Mi sembra che abbia tipo 20 mogli, 50 fratelli e 80 figli. Tutti che mangiano e bevono intorno alla piscina. Champagne! Mai bevuto champagne. È tipo Sprite, però più aspro. E tanta gente che balla e suona i tamburi. Bello, tutta la notte, bellissimo. E Mamadou mi sorride, come dire, bello, no? Ti diverti? Ti piace la mia famiglia? Ti piacciono i miei amici? Sì, sì, dico io, un casino! Solo che sono tanto stanco. Stanchissimo. Vorrei dormire. Sì, sì, vieni. E mi porta in una stanza con dei cuscini. Ti occorre qualcosa? No, no, grazie, buonanotte. A domani. E mi addormento come un piombo. E quando mi sveglio, sono sulla spiaggia, di nuovo. Non so come. E sono solo di nuovo. Nessuno da un lato, nessuno dall'altro, nessuno in mare. È notte, ma c'è tanta luce. C'è una luna grande, ma grande, che io non l'ho mai vista così grande. E stelle a miliardi. Più calda che da noi in questa stagione. Ma che stagione è? E poi vedo una sagoma scura che si avvicina da in fondo alla spiaggia. E si avvicina. E quando è proprio vicino, vicino, tipo a un metro, vedo che sono io tipo un altro me stesso, che mi sorrido. E sono un po' preoccupato. Non so se è una cosa bella o una cosa brutta. Però lui mi sorride sempre. E poi mi prende la mano e se la poggia sul petto, qua, al centro. E io sento la sua mano calda e resto come paralizzato. E in quel momento lui perde tutti i capelli, ma non tipo un grande che diventa calvo, tipo un neonato. E infatti diventa proprio un neonato. Allora io prendo paura e penso, che cosa vuol dire? Che si può tornare indietro? Che si ricomincia tutto da capo. Ciao Bella e Monella, sono Angelo. Volevo dedicare la canzone Sei bellissima di Loredana Bertè a mia mamma per il suo compleanno. Ciao mamma, tanti auguri. Angelo. Ciao. Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo il fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente. E ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, a quanto avevo nei capelli la luce rossa dei coralli. Ambiziosa come nessuna. scoppiò un giorno